Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 3. Il secchione. Quella mattina faceva troppo caldo per bighellonare alla Resi. C'erano solo alcuni punk che dormivano sdraiati all'ombra del cemento, con ogni probabilità svenuti lì dalla serata precedente. Dopo un'occhiata veloce, Mirko decise di recarsi in un posto tranquillo. Da qualche tempo c'era qualcosa che reclamava di essere trascinata fuori dal mondo dell'immaginazione e messa su carta, nero su bianco. I suoi testi migliori nascevano così, aspettando il contatto con la vocina che gli dettava le parole. Si sentiva ispirato. Gli venne in mente il pub. Era una perfetta imitazione di un vero pub inglese, piuttosto incongrua nel centro storico medievale di una città mediterranea, ma l'ambiente era quieto e accogliente. Velluti rossi sulle confortevoli sedie dagli alti schienali, luci soffuse che creavano tonde oasi di chiarore nella penombra, un legno scuro di anni sulle pareti che col tempo aveva assorbito ogni molecola rilasciata nell'ambiente da cibi, fumi, conversazioni. Un ampio bancone esponeva scintillanti calici di varie fogge, insieme a svariati tipi di birra di ogni gradazione e colore. Non c'era alcuna traccia di televisione o schermi, e questo accentuava la sensazione di entrare in un guscio protetto dal mondo. Lì erano nate alcune delle canzoni del gruppo. Mirko suonava la chitarra, inseguendo gli accordi e la fantasia del momento. Drago canticchiava e prendeva nota delle parole sul primo pezzo di carta che trovava. Anche se i ruoli erano intercambiabili e spesso era Mirko a scrivere i testi delle loro canzoni. Aveva conservato quell'abitudine. L'atmosfera del pub metteva sempre a disposizione un pizzico di magia creativa. Entrò spingendo la porta di legno in stile saloon. Fu lieto di scorgere in fondo Diossido già seduto ad un tavolo intento a leggersi un libro. Una birra in compagnia poteva essere un buon modo per iniziare bene la giornata. «Ehi, guarda un po'», disse Mirko sedendosi e scrutando la copertina del libro. «Ma dove lo hai trovato questo?» Diossido stava leggendo i versi satanici di Salman Rushdie. «Il libro è scomparso dalla circolazione da anni e questo poveraccio sta ancora vivendo sotto scorta», rise Mirko. «Poveraccio non direi. Si è costruito una carriera con la storia della fatua. E secondo me se l'è pure andata a cercare. A quelli lì non li devi provocare se non sei in grado di affrontare una guerra vera o se non aspiri al paradiso. Comunque questa copia l'avevo comprata appena uscita, prima che iniziassero gli isterismi di media e religiosi e la taglia sulla sua testa. Finezza delle finezze, avrai notato poi, spero, il significato del suo nome». «Rush die», sghignazzò Mirko. «Fretta di morire? Nomen omen, dicevano gli antichi, e non a torto, lo ammetto». Poi si fece serio. «Ecco per cosa combattiamo. Per rispedire i cavernicoli nel fondo delle loro caverne e seppellirli sotto tonnellate di massiccio oblio». Allargò le braccia dietro la testa, guardandosi intorno. «Vaffanculo al XX secolo, questo sarà il primo millennio di una nuova era, la nostra». Diossido osservò il vecchio amico ravvisando nella sua espressione quello che gli piaceva in Mirko. L'innata bontà d'animo, il desiderio appassionato per un mondo più libero, la fiducia che tutto era possibile, la convinzione di appartenere alla parte evoluta della civiltà. Vide però anche l'ingenuità e superficialità di Mirko, che erano le sue più grandi debolezze, e ne ebbe paura. Ma forse era solo lui che pensava troppo. Tuttavia non gli sembrò neanche per un attimo che Mirko parlasse a vanvera. «Senti, che ne dici di inventarci qualcosa da fare?» gli chiese chiudendo il libro. Aveva voglia di distrarsi dai suoi pensieri. Siamo qui vicino, potremmo andare dal secchione a vedere se ha fatto qualcosa di nuovo, rispose dopo un attimo di riflessione Mirko. Diossido ghignò. Marrone è bello? Ma sì, dai, facciamolo felice. Il secchione, in effetti, abitava proprio a due passi dal pub. Era stato impietosamente soprannominato Marrone è bello a causa della sua tendenza a preferire esclusivamente qualsiasi sfumatura di marrone nel vestirsi. A memoria d'uomo, i suoi abiti erano sempre stati marrone. In effetti era un colore in tinta con la sua personalità. Appariva vecchio già da giovane. Dall'aspetto dimesso e di poche parole, dalle movenze lente e goffe, dal gusto ottuagenario nel vestirsi, a 20 anni sembrava un pensionato in quieta attesa della tomba. Apparentemente incapace di qualsiasi guizzo vitale, in realtà un interesse nella vita lo aveva, solamente uno. Il sintetizzatore musicale che aveva costruito e che negli anni aveva assunto dimensioni ipertrofiche. La larga struttura era formata da un massiccio mobile di legno, marrone, alto un paio di metri, a forma di L. Poggiava su un tavolo marrone, costruito su misura e che ospitava anche la tastiera ricavata da un vero pianoforte. Sulla bruna superficie, decine di spie luminose incastonate come tanti occhiolini colorati, rossi e verdi, ammiccavano senza posa. Dozzine di cavi entravano ed uscivano dall'apparecchio come lucidi lombrichi. File e file di cursori, tutti uguali, parevano battaglioni allineati sulle mappe dai generali. Potenziometri, manopole, slider, con tarature millimetriche, alteravano le frequenze con la precisione di un bisturi da chirurgo. Era un leviatano musicale. Nessuno avrebbe potuto liquidarlo con un'alzata di spalle. Il secchione sbavava quando mostrava ai suoi amici le nuove parti che aveva aggiunto all'esorbitante struttura. L'ultima volta che Diossido e Mirko erano andati a trovarlo, era eccitatissimo. Aveva ricreato il suono che fino ad allora avevano ascoltato solo nei dischi dei Tangerine Dream o di qualche altro primitivo gruppo tedesco di musica elettronica. Stettero a lungo senza fiatare, intenti ad ascoltare una singola nota senza fine che risuonava di abissi senza fine. Riproduceva il suono di una galassia rotante. Sembrava di poter udire ogni singola stella per piccina o lontana che fosse. Nessuno strumento odierno, per quanto sofisticato, potrebbe riprodurre il calore che emanava dalle note di quell'ammasso di metalli. La profondità e le calde armoniche del suono rendevano la stanza in penombra simile a una navicella spaziale. Questa era la magia di quel sintetizzatore. Nonostante la potenza e la peculiarità del suo strumento, il secchione non lo usava per suonare, non componeva musica, nemmeno aveva un gruppo. Non era un mezzo, ma un fine, la sua torre di Babele personale. Il secchione era un personaggio di costante ispirazione per Diossido e Mirko. La genialità inconsapevole del loro amico gli serviva da monito. Gli metteva davanti agli occhi il prototipo del fallimento al di là delle qualità che si potevano possedere. Era sempre rinfrancante fargli visita. Dopo ci si sentiva meglio, più consapevoli delle proprie capacità e dei propri limiti. Uscirono dal pub ridacchiando entrambi. Marrone è bello. Suonarono il campanello del condominio dove abitava senza ricevere risposta. Magari ha la cuffia e non ci sente. Diossido suonò un campanello a caso. Pubblicità, disse. Lo scatto della serratura confermò la sua credibilità. Salirono a piedi fino al quarto e ultimo piano. L'appartamento del secchione era l'unico del pianerottolo. La porta si aprì non appena Mirko toccò la maniglia. Ci sei? Ciao, siamo noi? Le luci che provenivano dalla stanza in fondo al corridoio non rivelavano segni di vita. Avanzarono nell'oscurità verso il chiarore del neon che illuminava il salone della casa. Silenzio assoluto. Diossido fu il primo a scorgere a terra una serie di apparecchiature elettroniche ammassate una sull'altra. Quando entrarono nella stanza, il disastro si rivelò per intero. Un'intera parete, in precedenza ricoperta di scaffalature colme di ogni genere di marchingegni, era crollata. Era venuto giù di tutto. Il secchione non buttava mai via niente. Aveva ammassato centinaia di componenti in decine di scatoloni stipati in scaffali che dal pavimento salivano ordinati in file fin sopra le loro teste e che ora, a quanto pareva, avevano allegramente ubbidito alla legge di gravità. «Non è quello che penso io, vero?» Mirko stava indicando un calzino marrone e una scarpa marrone che sporgevano dalla catasta. Diossido sollevò un monitor a 28 pollici, fece segno a Mirko di aiutarlo. Spostarono matasse di cavi, circuiti stampati, lettori CD, persino due vecchie pesanti radio a valvole con il loro mobile di legno massiccio, alimentatori e trasformatori. Qualsiasi cosa fosse in grado di condurre un elettrone era lì. In breve la sommità della catasta fu sgombrata. Scavarono ancora fino a trovare il corpo. Probabilmente già il primo colpo era stato fatale al secchione. A causa del peso delle scaffalature che lo avevano travolto, il corpo era scomposto in una breakdance post mortem. La testa era rovesciata di fianco. Il viso si era deformato come una maschera sotto l'impatto che gli aveva fracassato buona parte del cranio. I vetri delle lenti dei suoi spessi occhiali erano ora piercing che gli punteggiavano di schegge quello che restava del viso deforme. Una lunga scheggia di vetro gli trapassava le narici dandogli l'aria di un moderno stregone. Oli per pulire e lucidare le parti elettroniche si mescolavano al sangue e ai fluidi cerebrali, formando sul pavimento paesaggi marini extraterrestri di una beffarda tonalità marrone. Non c'era niente da fare. Il ragazzo ormai era nel paradiso dei sintetizzatori. Probabilmente intento a suonare il più meraviglioso sintetizzatore polifonico mai concepito da mente umana. «Merda!» mormorò Mirko. «Doppia merda! Penso che siamo nei casini.» «Che vuoi dire siamo?» Mirko si interruppe. «La polizia, cazzo!» «Se non avessimo toccato niente sarebbe meglio andarcene, però ormai abbiamo lasciato tracce dappertutto. Quando la polizia arriverà...» «Ma è un incidente!» «Sì! Ma dove c'è un morto c'è qualcuno che vuole sapere com'è morto. Quindi non abbiamo scelta? Bella roba. Allora diciamo la verità?» Diossido rispose sereno. «Certo, la semplice verità sarà sufficiente. Siamo o non siamo innocenti?» Le ore successive furono pesanti e penose per entrambi. I genitori del secchione, chiamati dalla polizia, erano arrivati mentre i tecnici della scientifica rilevavano posizioni e materiali. Il medico legale aveva acconsentito a lasciare il cadavere dove si trovava per il tempo necessario affinché la scientifica completasse i rilievi. Riferì che il cadavere era lì da almeno un paio di giorni. Pessimo spettacolo. Nessuno era riuscito a convincere i genitori del defunto a non entrare per non vedere la scena. Singhiozzavano abbracciati mentre il commissario interrogava Diossido e Mirko. «Avete detto che a volte non chiudeva la porta quando lavorava in cuffia. E chi altri era a conoscenza di questo fatto oltre a voi?» Diossido rispose con pacatezza. «Chiunque lo conosca, vede, il secchio, voglio dire Mario, amava ricevere visite. Il suo sintetizzatore era il suo vanto. La gente che viene qui non può fare a meno di restare sbalordita, stupefatta. E il Mario gongolava quando succedeva. Per lui era l'equivalente di un ballo in società. Ci pregava spesso di portargli nuove persone.» «Capisco. Aveva nemici?» Mirko, che fin lì era rimasto in silenzio cercando di controllare la tensione, esplose in una risata. Nemici, lui? Io non credo che abbia mai rivolto il proprio interesse al di là del suo sintetizzatore. No, no, come si faceva a odiare il secchione? Si rese conto di essere stato un po' sopra le righe, ma il commissario, dopo avergli rivolto una lunga occhiata, sembrò convinto. Va bene, vi chiameremo nei prossimi giorni per testimoniare e mettere a verbale. Peccato che nessuno sia venuto prima, forse poteva salvarsi la vita. Già, forse. Ci dispiace averlo perso, davvero. Camillo e Mirko scesero le scale, ognuno assorto nei propri pensieri. Arrivati in strada si resero conto che era ormai sera. Diossido guardò Mirko, illuminato dai lampioni, sembrava stanco. Aveva le occhiaie profonde e lo sguardo triste. Ragazzo, la giornata è finita. Hai ragione, ho bisogno di dormire, se ci riuscirò. Scommetto di sì. Ma tu non sei preoccupato? Dice il Buddha. Che tu ti preoccupi o no, le cose vanno come devono andare, comunque. Boh, a me sembra una stronzata. Diossido non si diede per vinto. È la vita che è una stronzata. Guarda te come finisce. Sotto una tonnellata di cavi. Ok, basta per stasera. Sono davvero stanco.